Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buona settimana a voi. Oggi è il primo lunedì di primavera. Noi andiamo a sentire il tema di oggi, che è un tema che ci porterà occuperà tutta la nostra puntata. Però volevo prima ringraziare Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Oggi parliamo del nostro cuore e ne abbiamo solo uno e credo che valga la pena coccolarlo un po'. Facciamolo subito. Un ascolto terapeutico, provare per credere o più precisamente sentire per stare meglio. L'ascolto della musica influisce sul ritmo cardiaco, che possiamo paragonare al passo del nostro cuore, e se il battito è regolare tutto il sistema circolatorio è contento. Tutto questo è provato e pubblicato. Intanto saluto il nostro ospite di oggi, il professor Cesare Fiorentini, ordinario all'Università Statale di Milano e direttore della cardiologia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, buongiorno, che piacere averla qua. Allora, oggi il cuore è protagonista della nostra puntata, ma prima di occuparci di ciò che gli fa male e dei sintomi che non dobbiamo trascurare, parleremo soprattutto di questo, degli esami che ci permettono di controllarlo e delle novità che hanno segnato sicuramente un passo nella terapia delle malattie cardiovascolari. Abbiamo pensato di regalarci un po' di benessere. È anche quello che fate voi al Monzino con una serie di incontri in cui insegnate alle persone le cose che fanno bene al cuore. E questa è la musica, è sicuramente una di queste. Professore. Si è cercato, sì, di far capire non soltanto ciò che fa male. Qualche volta il medico, il cardiologo in particolare, deve fare un po' la faccia truce, affermarsi come una specie di custode delle verità più difficili, e invece noi abbiamo cercato di mostrare o di indicare alcune cose semplici ma che potrebbero far bene. La musica è una di queste. Abbiamo già fatto un incontro, spesso mi viene chiesto ma quale musica? Forse la cosa migliore è la musica che ognuno sente più vicino alle proprie corde, se così possiamo dire, nel senso che chi preferisce o magari è più abituato, più portato verso la musica classica, certi tipi di musica classica, ascolti pure quella. Altri che hanno invece possibilità e dimestichezza per la musica meno classica, potrebbero andare benissimo anche questi tipi di musica, purché chi l'ascolta si sente in qualche modo appagato di questi momenti di relax, di formazione, di grande tranquillità dopo di cui il cuore ha bisogno. Dopo la musica abbiamo pensato che potesse fare bene al cuore un po' di buon umore, qualche sana risata. Pensate a qualche cosa che vi fa ridere. A me fa ridere Totò e questo vi propongo. Dunque, excuse me. Sega. Bitteschön. Noio. Sega? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Vero Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri, io ci ho voluto io. Intanto, mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo. Professor Fiorentini, vedo che ride anche lei e cuor contento il cielo aiuta. Non c'è dubbio, e qui poi ci aiuta anche perché noi subito associamo qualche immagine intanto che ascoltiamo questi dialoghi formidabili di Totò. E anche su questo c'è stato in effetti finalmente un po' di letteratura seria, ci sono usciti dei lavori importanti, lavori di grande pregio, che ci dicono che in effetti ogni tanto fare qualche sana risata o con Totò o anche in famiglia, se così sì. Si può ridere, si può dire, non è male. E questo credo che sia, certo, dobbiamo fare anche molte altre cose, poi vedremo, ma potrebbe essere anche un altro sistema per tenere il nostro cuore un pochino più tranquillo. Perché al cuore, parlando di lui come di una persona in carne e ossa, piace ascoltare musica, intrattenersi con persone divertenti, farsi qualche sana risata, ma professor Fiorentini, tutto questo aiuta ma non basta, ci sono delle cose che gli danno parecchio fastidio, le conosciamo a memoria perché l'informazione, devo dire, veramente ha insistito su tutte le cose che possono nuocere al cuore, ma noi spesso facciamo un po' finta di niente e pensiamo che insomma in fondo il cuore è una persona di buon carattere e allora sopporta. Ma allora recuperiamo un po' qualche informazione. Il cuore detesta la sedentarietà, questo non gli piace proprio perché è un motore fatto per andare, quindi ha bisogno di una persona, di battere con è una vero. Persona che lo aiuta anche a stare bene muovendosi. È vero, il cuore è un organo unico ma molto generoso, generosissimo, però anche un po' permaloso, se così possiamo dire, ed è un organo che subisce alcune influenze molto negative se ci si comporta male cronicamente, sì. E poi a un certo punto diventa, come dire, fonte di malattia seria. Ma qualche volta manifesta questa sua permalosità anche acutamente per fenomeni appunto o per cattive abitudini che non abbiamo sviluppato nel corso degli anni o dei decenni, ma addirittura che abbiamo sviluppato anche da un momento all'altro. Un eccesso alimentare acuto, un eccesso, che devo dire, di input alcolico, magari una persona in cui non è abituata, eccetera, certo. Eccetera. Quindi sono un po' due questi binari che noi dobbiamo seguire. Il primo è quello di cominciare a comportarci bene, diciamo così, fin da giovani, soprattutto se si sa che in famiglia c'è qualche familiare che ha avuto problemi cardiaci, certo. Eccetera. E il secondo è quello di non fare eccessi che naturalmente potrebbero portare a problemi acuti. Perché il cuore ama mangiare bene e sano. Allora, che prendete? Un paio di bistecche, Link? Per me, per Mike Polo. Pollo fritto e... No, mi scusi. La signora evidentemente non sa molto di alimentazione. Un pasto a base di pollo fritto e patate fritte, signora, contiene circa 1000 calorie e il 50% di grassi. Questi dati sono stati associati a casi di disturbi cardiaci. Allora che vuoi mangiare? Insalata di tonno, pane integrale e acqua con limone, per favore. Professor Fiorentini, la sapeva lunga, questo ragazzino, perché i chili di troppo, specie quelli che si concentrano nel girovita, quelle che noi chiamiamo le maniglie dell'amore, al cuore proprio non vanno giù, anzi gli fanno male. Eh sì, è stata vista questa relazione sia nel sesso maschile che femminile con il girovita aumentato come fonte, come se il rapporto fosse diretto, diciamo. In realtà i passaggi sono diversi, però quello è una spia di qualche cosa che non funziona e soprattutto che ci deve spingere a fare, come dicevamo prima, attività fisica, perché l'attività fisica è in grado di ridurre sia nel sesso femminile che nel sesso maschile, ritonificando anche la muscolatura del torchio addominale, la muscolatura del basso all'altezza dei femori, diciamo, del bacino. Ebbene, questo è effettivamente uno dei fattori di rischio sui quali ormai si insiste, anche perché è molto semplice da misurare, non abbiamo grandi esami da fare. Professor Fiorentini, andiamo al fumo, di qualunque genere e anche in modiche quantità. Perché? Dunque, il fumo, si ritorna un po' al discorso di prima, di qualunque genere, perché è dimostrato ormai che al di là di quelli che sono i guai che crea, per esempio a livello polmonare, in cui i cardiologi c'entrano soltanto, diciamo così, un po' collateralmente, ma a livello vascolare il fumo è effettivamente molto nocivo. soprattutto perché favorisce la formazione dei trombi e questo è uno dei nostri grandi nemici, il trombo, perché è in grado di provocare per esempio infarto miocardico, embolia polmonare, cioè malattie importanti, severe, a rischio di vita per il paziente, che possono essere provocate dal fumo, sia per chi fuma cronicamente, cioè fuma le solite 20, 40, e qui mi fermo perché sappiamo che non sempre ci si può fermare, ma anche una sigaretta o due sigarette fumate un po' di corsa, magari in un momento di concitazione, di stress acuto per una, diciamo, cattiva notizia o comunque per un qualcosa di che va fatto in modo rapido, ebbene anche quello può provocare, se c'è una, già una piccola alterazione a livello vascolare, a livello di una placca di questa nostra grande nemica, la placca aterosclerotica, può far aprire questa placca e indurre un trombo che può essere anche, nella peggiore delle ipotesi, e grazie a Dio ormai siamo molto allenati anche a curarla, però potrebbe anche essere fatale. Perché rischiare? E invece andiamo ad un altro fattore di rischio che tutti noi ormai associano alle malattie cardiovascolari, che è la pressione alta. E ricordo che secondo i dati sono circa 15 milioni gli ipertesi in Italia, quelli che sanno di essere ipertesi, poi c'è tutto il sommerso. Professore. E questo è un problema sul quale ci dobbiamo impegnare tutti quanti, perché non solo non sono abbastanza quelli riconosciuti come tali, ma sono anche scarsi quelli che vengono curati o si curano adeguatamente. È ovvio che chi non lo sa non si cura neanche, ma anche fra quelli che sono riconosciuti come ipertesi, la quantità, la percentuale di quelli che si curano bene sembra essere un quarto, sì, la pochino, metà, insomma. Non tanto, noi dovremmo in questo salire molto, i fattori sono molti, adesso non possiamo neanche dirli tutti, ma con i farmaci nuovi che hanno meno effetti collaterali di quelli che usavamo 20 anni fa, eccetera, forse ci dobbiamo aspettare un risultato molto migliore. Dobbiamo pretenderlo, certo, vero professore? Certo, certo. Allora, precedenza oggi all'800 24 0024 chi è? In sovrappeso, ha la pressione alta, è pigro, è fumatore, ma professor Fiorentini parleremo anche dei sintomi che ci manda il nostro cuore, i segnali, il batticuore ad esempio, il primo che mi viene in mente, quello che di solito allarma di più, ma che nella maggior parte dei casi è per fortuna è assolutamente innocuo, no? Soprattutto il batticuore degli innamorati, quello che noi ci auguriamo di avere tutta la vita. Ma ci sono, professore, anche dei segnali che sono più subdoli e che spesso facciamo fatica a collegare al cuore. Professore, ci aiuti lei? Sì, il batticuore degli innamorati è quello che i francesi chiamavano maladie d'amour, le malattie di cuore, no? Loro hanno sempre queste espressioni. Bene, noi abbiamo, al di là di quelli che sono i tuffi al cuore dei giovani, eccetera, abbiamo effettivamente da riservare una particolare attenzione a quello che noi chiamiamo il cardiopalmo, cioè il fatto che si avverte il cuore che sbatacchia all'interno del torace, sotto lo sterno, e questo naturalmente deve essere registrato se possibile. Oggi ci sono molti mezzi di registrazione, l'elettronica ci aiuta tantissimo, al di là del solito elettrocardiogramma Holter 24 ore, ma ci sono dei metodi ancora più raffinati e questi vanno, come dire, prima di tutto evidenziati dal punto di vista diagnostico, perché qualche volta può capitare anche che si tratti di disturbi di scarso rilievo, ma altre volte invece sono disturbi che, quando incominciano a manifestarsi, vanno assolutamente catalogati e possibilmente curati nel modo migliore, perché potrebbero portare anche a guai grossi, e qui mi fermo naturalmente. Allora, dobbiamo quindi, professor Fiorentini, preoccuparci o perlomeno parlare al medico se il nostro cuore va un po' di corsa, se abbiamo l'affanno, ma anche se ad esempio le caviglie sono gonfie, professore? Sono così lontane, cosa c'entrano con il cuore, uno pensa, invece voi medici dite bisogna vedere. Sì, il gonfiore delle caviglie, qualche volta devo dire che è anche colpa nostra, se posso dire, perché ogni tanto noi usiamo dei farmaci vasodilatatori che possono loro stessi, essi stessi, dare gonfiore alle caviglie. Ma scartata questa ipotesi, che succede ormai molto raramente, in effetti se c'è qualcosa che si deposita a livello perimalleolare, come diciamo noi, alle caviglie, come giustamente diceva lei, ebbene bisogna essere subito attenti, perché potrebbe denunciare una ridotta funzione di pompa, come diciamo noi, del cuore, che si ribatte a posteriori, cioè verso il sistema venoso, verso in ultima analisi alle caviglie. Quindi bisogna essere attenti a questo, perché potrebbe essere un sintomo da valorizzare. Non sempre, io ci tengo sempre a dire, noi dobbiamo dare delle informazioni che non siano mai terrorizzanti per il paziente, ma molto obiettive, in modo tale che si possa, effettivamente dare un intervento tempestivo, senza esagerare con la preoccupazione. E molti dei nostri ascoltatori sono preoccupati proprio per il ritmo del loro cuore. Io lo ascolterei, perché stiamo parlando del cuore come di una persona amica, in effetti dobbiamo tenercelo da conto, e penso che proprio ogni storia di amicizia cominci dall'ascolto. Andiamo a sentire il battito. Professor Fiorentini, cos'è il battito regolare? Come bello, sta? Battito regolare, bello, primo e secondo tono, bellissimo. Quello quasi che, una musica. Quasi una musica, anzi senz'altro una musica. A noi l'hanno insegnato molto bene da ragazzi, noi cerchiamo di trasmetterlo ai nostri ragazzi. Ormai non è facilissimo, se posso fare una piccola osservazione, perché la diagnostica strumentale di tutti i tipi, avanzatissima, eccetera, finisce per trascurare un po' questi aspetti semplici. E invece noi dobbiamo anche sforzarci per sentire questi due toni in modo corretto, anche perché se c'è qualcosa che non va si avverte immediatamente. Allora, in piedi o seduti, a riposo o in movimento, di notte o di giorno, quando il cuore prende il passo, inizia a correre, professore, noi che cosa dobbiamo fare? Respiriamo a lungo e diciamo mi tranquillizzo e aspetto che arrivi la prossima, il prossimo spavento, oppure che cosa dobbiamo fare? Molto dipende da che cosa succede nel momento, anche nel momento in cui si sente l'accelerazione, si avverte l'accelerazione. Se l'accelerazione è, per esempio, associata a una sensazione di mancanza di fiato, allora bisogna farlo subito presente al medico, andare al più vicino pronto soccorso, eccetera. Lo stesso se con la sensazione di aritmia compare per esempio una vertigine, cioè una sensazione di perdita di equilibrio, eccetera, allora bisogna essere, come dire, un po' più severi e andare laddove è possibile consultare un cardiologo o un ambiente cardiologico. Se no è giustissimo mettersi un attimo seduti, prendere un momento fiato e capire se effettivamente è una cosa, così dire, transitoria oppure no. E molto dipende anche dal fatto se è la prima volta oppure se uno ne ha già avuto in passato, perché se uno ne ha già avuto in passato e tutto poi si è risolto spontaneamente ha un significato, se invece è la prima volta è meglio chiarire. Abbiamo Giovanna che ci chiama dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Come sta il suo cuoricino, Giovanna? Ma io quando non ho quelle che chiamo extrasistoli, diciamo, sto abbastanza bene. Io ho avuto due episodi di fibrillazione atriale. Uno 8-9 anni fa che si è risolto, perché quando ho visto che mi stavano applicando quelle due piastre, ho preso una tale paura che si è ridimensionato tutto. Le piastre per la cardioversione, da quello che capisco. Sì, per la cardioversione, esatto. Sì, sì. E poi l'ho avuto un altro 3 anni fa, o 2 anni fa, che si è risolto invece attraverso medicinali. Sono stata con le flebotre. E comunque io ho nessuno mi dice o forse non si sa, io volevo appunto il parere del professore, da che cosa possono dipendere queste, perché io ho ogni tanto quelle appunto che chiamo extrasistole, cioè mi si ferma il cuore, fa dei battiti regolari, mi è capitato una volta addirittura di perdere l'equilibrio e di dovermi appoggiare al muro mentre ero per la strada. e sono abbastanza frequenti, anzi adesso certo. Ultimamente sono piuttosto frequenti. Io ho una leggera, dicono che è abbastanza leggera, prolasso, un leggero prolasso della valvola mitralica, che mi è stata diagnosticata anche con un esame esofageo, no? Guardando sì, per dietro. Sì, certo, ormai riescono a vedere tutto. Io volevo dare la parola al professor Fiorentini perché può rassicurare Giovanna, che ha una situazione abbastanza comune, perché molti dei messaggi che stanno arrivando riprendono alcuni dei sintomi descritti da Giovanna prima di andare ai mercati. Professor Fiorentini. Sì, signora Giovanna, il primo messaggio è rassicurante. Assolutamente rassicurante, spessissimo con questo piccolo disturbo della mitrale che lei ha avuto diagnosticato, il prolasso, concomitano sia le estrasistoli sia, andando avanti un pochino nel tempo, la fibrillazione atriale. Niente di grave, come lei ha visto noi abbiamo vari mezzi, qualche volta oggi si tende anche a dare addirittura le pastiglie in tasca al paziente quando succede questa cosa, quando si sa che non è niente di grave, in modo tale che uno evita di andare al pronto soccorso, di sottoporsi a tutte quelle insomma tutte le cose che non sono poi così piacevoli della vita. Allora, con un paio di compressini in tasca, dando le indicazioni precise giuste al paziente, quelle che i nostri colleghi inglesi hanno battezzato pill in the pocket, ebbene si riesce effettivamente a risolvere il problema. E poi in alcuni casi avere la pillolina in tasca rassicura, esattamente, no? Siamo tornati in questa puntata, il primo lunedì di primavera, la dedichiamo al nostro cuore. Abbiamo in linea con noi Luisa, ci chiama dalla provincia di Milano. Luisa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno sì. A lei. Senta, io volevo chiedere al professore, volevo spiegare quello che mi è successo un po' di tempo fa, diciamo non molto tempo fa. Sì. E dunque, naturalmente diciamo che adesso sto facendo tutto quello che mi hanno indicato di fare. Sì, insomma. Però volevo capire questo, io una sera a tavola, a cena normalmente, tranquilla, premetto, soffro di pressione alta, diciamo ipertensione arteriosa e anche colesterolo alto. Sì. Comunque ho avuto questo episodio che mi ha molto preoccupata e mi ha anche agitato. Ho avuto questo offuscamento del visus bilateralmente, cioè improvvisamente, non proprio, un po' gradatamente, non vedevo più nulla. Mm. Ecco, e allora così dopo subito, diciamo abbastanza, dopo che ho capito che proprio era quello, sono corsa al pronto soccorso e dopodiché mi hanno fatto, cioè sto facendo una serie tutti di esami. Allora Luisa ci dà lo spunto per parlare dei controlli, professor Fiorentini. Sì. Di solito li iniziamo quando ci spaventiamo, allora lì ben venga il medico, il cardiologo, forse qualche controllino bisognerebbe farlo prima, senza esagerare. No, perché gli esami inutili sono comunque. Professore. Noi utilizziamo questo termine appropriatezza degli esami, che è un po' come dire un tentativo di limitare, di esagerare con gli esami proprio per farli alle persone che ne hanno veramente bisogno. Ebbene, la signora Luisa ci ha segnalato un sintomo che ha fatto benissimo a valorizzare e andare al pronto soccorso. Magari tutto si risolve in niente, però noi sappiamo che per esempio la pressione arteriosa può dare dei problemi al circolo cerebrale e questo potrebbe essere in effetti riferito a qualche cosa, un vasospasmo, un vasellino che per un pochino si è spasmato magari per un momento di pressione troppo alta e che per esempio dal nostro punto di vista può essere molto ben visto facendo l'eco Doppler delle carotidi, sì, cosa semplicissima ormai ben standardizzata e che ci potrebbe dare un'idea di una vasculopatia in qualche modo che coinvolge i vasi cerebrali. Naturalmente poi l'ecocardiogramma è un altro di questi esami, l'elettrocardiogramma prima di tutto. Che dà voi cardiologi, siete abbastanza fortunati voi cardiologi, sì, professor Fiorentini, sì, sì, sì. Perché avete degli esami che vi permettono di vedere proprio la situazione in modo chiarissimo, o sbaglio? Benissimo, lei ha detto una cosa bella che io dico sempre, noi siamo fortunati perché la nostra possibilità sia di diagnosi sia di terapia è enorme e è molto migliorata, molto, probabilmente anche nelle altre specialità, ma insomma ognuno vede la sua, nella nostra specializzazione è effettivamente molto migliorata. Il nostro vero cruccio, sul quale ancora abbiamo molto da lavorare, è quello che è il disturbo gravissimo che dà la cosiddetta morte improvvisa o inaspettata. Sì. Questo è, come dire, un po' un classico anche nell'immaginario collettivo, qualche volta anche esageratamente valorizzato, ma dal nostro punto di vista, se riusciamo a fare un buon percorso, effettivamente abbiamo tante cose da offrire e anche risultati importanti in quasi tutte le patologie, e posso togliere anche il quasi da ottenere. Perché, professore, l'evento che lei citava, la morte improvvisa, no? Il crepacuore, come si dice nella tradizione popolare, ma l'evento che fa paura a tutti noi, proprio perché colpisce in maniera importante il motore della nostra vita, è l'infarto. E molti, ne ho conferma leggendo gli SMS, temono proprio di non riuscire ad individuarlo, di confondere i sintomi, magari di trascurarle. Chi dice infarto pensa al dolore, che di solito rappresenta una componente importantissima della sintomatologia, ma non è detto che sia sempre presente, né che sia il solo sintomo. Harry, ma cos'hai? Non ho niente, sto bene. Hai dolore al torace? Come se ci fosse un elefante seduto sopra. Chiama l'ospedale, digli di mandare un'ambulanza. Come andiamo qui? Dottore, ha avuto una trentina di minuti di dolori anginoidi, nausea, dispnea, polso 104, respirazione 18. Signor Sanborn, sono il dottor Messer. Sente qualche dolore adesso? Sento una pressione forte al torace. Diciamo un macigno. Fa vedere in che punto? È proprio qui. L'ECG indica un'arteria ostruita che non fornisce sufficiente ossigeno al miocardio. Insomma, un attacco cardiaco. Tutto può succedere, questo era il titolo del film di cui abbiamo sentito un breve estratto, e per l'infarto tutto spesso succede all'improvviso. In linea con noi abbiamo il dottor Fabrizio Del Noce, direttore di Rai Fiction. Buongiorno direttore. Buongiorno direttore. Direttore, anche a lei è successo all'improvviso, com'è andata? Ma è andata che una notte mi sono svegliato con un senso di come avessi preso fuoco il braccio sinistro e tutta la zona, come si può dire, intorno al cuore, una sensazione di quasi di bruciore, come fosse quasi un incendio, e, però per fortuna non mi sono fatto prendere dal panico e lasciato che la situazione normalizzasse, diciamo, passasse per conto proprio, anche perché in questi casi finire nelle mani di un cattivo medico o di un ho sempre pensato che possa essere molto peggio che non un'attesa, e quindi quando poi, insomma, con qualche piccolo dubbio, vicissitudine, sono finito nelle mani della struttura seria come il Gemelli a Roma, quindi in mani assolutamente fidate, abbiamo visto che purtroppo l'infarto c'era stato, e che poi facendo la coronografia, che non poteva bastare lo stealth, non bisognava passare le coronarie all'intervento dei bypass, e quindi abbiamo fatto l'intervento con 4 bypass, però 12 giorni dopo l'intervento ero già in ufficio a lavorare. Allora questo mi ha imbogliato a dire due cose. La prima è che l'infarto è una delle tante malattie che possono capitare nell'arco di una vita, ma che si può guarire in fretta bene, e ho ricominciato a lavorare e fare un'attività esattamente uguale a quella che facevo prima di averlo avuto, e a tutti i livelli, sia di vita lavorativa che di vita privata. E la seconda cosa è che è giusto dirle queste cose per dare coraggio agli altri, cioè non è che una volta che uno ha avuto un infarto la sua vita è finita o fortemente ridimensionata, assolutamente no. Ecco, quindi e in poco tempo sei di nuovo rimesso in piedi, e oggi la medicina ti consente queste cose, e dico una struttura pubblica, perché ci tengo a dirlo, perché non si pensi che ci siano trattamenti di serie A o trattamenti di serie B. Dottore. Grazie direttore, anche per aver trasmesso questi messaggi. Noi in realtà cerchiamo sempre di anche stressare il problema del tempo, cioè nel momento in cui compare un sintomo, anche se non completamente caratteristico come il suo, in cui ha prevalso il bruciore, se ho capito bene, rispetto al dolore, ebbene noi cerchiamo di stressare il fatto che in quel caso è bene andare subito, perché prima si fanno degli interventi di rivascolarizzazione e nel caso specifico suo poi la cosa ha portato al bypass, ma si possono fare anche gli interventi di rivascolarizzazione diversi attraverso il catetere durante la fase della coronarografia. Ebbene, noi sappiamo che prima si fanno e più muscolo cardiaco si salva. Questo è ormai diventato un classico, diciamo così, e i nostri colleghi anglosassoni ancora una volta, time is muscle, è diventato una specie di quasi un proverbio, non so come dire. Ebbene, questo è un altro dei messaggi che noi dobbiamo passare, perché se interveniamo rapidamente entro la prima o entro le prime due ore, effettivamente riusciamo a evitare i guai successivi, le aritmie, post-infarto e lo scompenso post-infarto, scompenso cardiocircolatorio, quello che può portare a quelle caviglie gonfie di cui facevamo cenno. Dottor Del Noce, io la ringrazio perché la sua testimonianza tirerà sul cuore a molti dei nostri ascoltatori, considerando che il dottor Del Noce ha ripreso, come ci ha detto, subito a lavorare e poi come direttore di Rai Fiction sicuramente il livello di stress è alto, oltre che le soddisfazioni, però che lì veramente, dottor Del Noce, lì sono carezze per il cuore, però anche le soddisfazioni sono stressanti. Ovviamente non è proprio quello più indicato per evitare lo stress, questo nostro, intendo dire, però ogni mestiere ha i suoi stress, quindi certo. Ovviamente non è che l'importante è, credo, questo io l'ho imparato in America, è che quando sei uscito bene da una malattia, testimoniarlo per dare coraggio agli altri. Approfitto di questo per dirlo che in certi settori, appunto come l'infarto, vedo molte persone disponibili a dirlo, altri invece che vogliono assolutamente non farne parlare, ma in alcuni settori dove ce ne sarebbe particolarmente bisogno non c'è quasi nessuno che lo dica. In Italia, per esempio, chi ha delle depressioni nervose, certo. Ecco, questo è uno dei settori dove c'è più bisogno che lo si dica, perché chi cade in queste malattie pensa di che sia una malattia quasi di cui vergognarsi, mentre invece è una malattia di cui si può guarire e che sarebbe giusto invece parlarne e testimoniarne. Esattamente. Direttore, grazie per essere stato con noi, grazie. Buona giornata. A presto, grazie. Grazie, è stato davvero gentile. Siamo tornati insieme dopo la testimonianza di Fabrizio Del Noce, che ci ha raccontato del suo infarto, ci ha raccontato anche che è stato sottoposto a 4 bypass, ma professor Fiorentini, adesso il bypass è stato integrato anche con un'altra metodica, no? Un'alternativa, possiamo dire, che sì. È l'angioplastica, che ormai è un trattamento assolutamente collaudato, che ha visto anche dei passi avanti, anche assolutamente, dei perfezionamenti insomma, proprio, bravo, sì, non mi veniva sì, la parola sì. Allora, in linea con noi per aggiornarci abbiamo il professor Antonio Bartorelli, che è professore di cardiologia all'Università di Milano e direttore della cardiologia interventistica al Centro Cardiologico Monzino. Professor Bartorelli, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Intanto io volevo che lei ci raccontasse quali sono le novità nell'angioplastica. Ma allora, l'angioplastica è una tecnica in continua evoluzione, e questo grazie fondamentalmente agli enormi progressi tecnologici, dovrei dire biotecnologici, che sono avvenuti soprattutto per quanto riguarda gli stent coronarici. Gli stent coronarici sono queste microprotesi che noi possiamo inserire nelle coronarie per allargarne il diametro quando questo viene ristretto dalla malattia ben nota che è l'aterosclerosi. Sì. Questi stent sono andati incontro a un'evoluzione soprattutto nei termini di un'aggiunta di farmaci antiproliferativi che prevengono quello che era il tallone d'Achille dello stent precedente, quello senza questi farmaci, che era la ristenosi, cioè la formazione di una proliferazione che lentamente nei primi 5-6 mesi riocludeva lo stent e quindi vanificava l'intervento in un certo senso. Quindi voi mettevate prima lo stent per disostruire e poi si riformavano ancora queste piccole placchette che andavano di nuovo a invalidare il vostro lavoro. Adesso invece avete questi stent che noi ce li vediamo un po' come palloncini, reticelle, tubetti con cui uno cerca di sturare il lavandino. E Cosa ha portato? Che un numero sempre più crescente di pazienti con restringimenti coronarici sempre più complessi può essere trattato non più con il bypass, ma con questi interventi mini invasivi che richiedono una degenza molto breve e non hanno una riabilitazione come quella dopo un intervento cardiochirurgico, con un risultato anche a distanza decisamente molto migliore in termini di durata e di pervietà di queste microprotesi. Grazie professor Bartorelli per essere stato con noi. Buona giornata. A voi, buongiorno. Allora, io adesso vorrei dare la parola a Noemi, Lucia e Chiara ad una condizione che siano rapidissime, perché voglio far rispondere al professor Fiorentini. Noemi, buongiorno, velocemente. Avermi chiamata. Allora, io sentivo parlare delle caviglie gonfie. Sì. Ho fatto, siccome prendo dei medicinali per la pressione e mi sono stati cambiati anche per vedere proprio se erano quelli che mi facevano gonfiare le caviglie. Sì. Comunque le caviglie continuano a essere gonfie. Mm. Ecco, io sono stata operata alla carotide destra. Sì. E quindi prendo anche la tachipirina, posso dirlo? No? Sì, che non è una parolaccia, Noemi. Quindi possiamo, professor Fiorentini, caviglie sì. gonfie, un intervento, i farmaci? Sì, l'ipotesi più probabile però può essere anche che la signora abbia magari delle piccole varici degli arti inferiori. Non dobbiamo trascurare questa ipotesi in particolare nel sesso femminile, che sappiamo ha questo po' di fragilità a livello delle vene degli arti inferiori. Quindi la prima cosa che farei sarebbe proprio quella di accertare che non ci sia una causa del sì. genere, che è banale sì. e si può risolvere con delle calze elastiche, tanto per essere chiari. Mentre naturalmente altre cose vanno valutate bene, come dicevo prima, in particolare la funzione di pompa cardiaca. Il problema della carotide mi sembra collaterale o accompagnato a quello sì. di cui dicevamo, non mi sembra comunque la causa. Ecco, la tachipirina, o meglio ancora la cardioaspirina, se posso dire, vanno benissimo, soprattutto perché impediscono che si formino, come dicevo prima, dei trombi. Trombi, che sono quelli che ci fanno paura. Esattamente. Andiamo a Roma, no scusa, andiamo a Pavia, non so perché ho letto Roma. Lucia, buongiorno, la trasferivo a Roma d'ufficio. Buongiorno, rapidamente la domanda, perché il professor Fiorentini può dare delle indicazioni che valgono anche per tutti. Buongiorno. Grazie mille, buongiorno. Una domanda semplicissima: siccome mio marito ha avuto un'angina pectore in famiglia, sempre i suoi familiari, chi ha avuto un infarto, sempre angina, così, volevo chiedere se i miei figli di 22-23 anni devono fare già qualche controllino a questa età per magari... Brava Lucia, domanda bellissima, professore. In casi, molto bella, in casi familiari, quando iniziare i controlli? Allora, prima di tutto sarebbe bene che i suoi figli non fumino. Anzi, è molto bene che non fumino, mettiamo tutto tranquillo, perché questo naturalmente, se c'è una familiarità, è un fattore di rischio di quelli che si possono eliminare anche da giovani, è molto importante. Certo. Poi vanno misurate naturalmente il metabolismo dei grassi, quindi colesterolo, in particolare le LDL, quello cattivo, come si usa dire normalmente, e poi bisogna naturalmente periodicamente fare qualche altro esame, misurare la pressione e eventualmente fare anche un elettrocardiogramma sotto sforzo, e farlo, se loro hanno 22 anni, lo si potrà fare ogni 4-5 anni, non bisogna neanche se poi... Tante, se come, no uno viene lo stress. Dice a Milano, tampinarli troppo. Tampinarli perché troppo. Se no poi dopo ci sono i rifiuti. Chiara, io sono, so che lei è in linea, buongiorno dalla provincia di Trento, ma il mio tempo è finito. Allora, se Chiara mi scrive a essere benessere@radio24.it, io le prometto che la metto, le chiederò al professor Fiorentini di occuparsi del suo caso. Chiara, va bene così? Bene, la ringrazio molto. Grazie, mi dispiace. Professore, noi ci salutiamo. Grazie. E auguriamo grazie. Buon cuore, no? Una grazie, giornata. Certo. Soprattutto, certo. Buon cuore a tutti. L'appuntamento torna domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Dai, che è quasi primavera. Buona giornata. Grazie, buongiorno.